Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di nuovo di tasse, o meglio del rinvio della riforma fiscale. Ieri ne ha parlato ampiamente, ieri in serata, nel corso del programma Porta a Porta, al Ministro Monti. Ascolteremo anche alcuni dei passaggi principali proprio in tema fiscale. E anche di PIL. Alcuni di voi ricorderanno una puntata che facemmo qualche mese fa sull'idea del se il PIL riesce ancora a misurare realmente il benessere economico di un paese. Sintetizzo brevemente: emerse che sicuramente non lo misura in maniera compiuta e che però non esistono molti altri indicatori per misurare l'attività economica, la salute economica di un paese, fermi restando tutti i limiti che ha il PIL. Perché ne parlo? Perché oggi di questo e su questo sono intervenuti da un lato il Ministro Monti e dall'altro anche il Presidente della Camera Gianfranco Fini. C'è stato un convegno infatti all'Aspen Institute organizzato proprio sulla misura del benessere, della felicità. Riascolteremo anche un passaggio di un bellissimo, a mio avviso, discorso pronunciato da Robert Kennedy il 18 marzo del 68 all'Università del Kansas, proprio sul tema di che cosa misura il PIL e che cosa non riesce a misurare il PIL. Poi la Banca Centrale Europea, tassi invariati, lo sapete già, prospettive abbastanza buone illustrate dal Presidente Jean-Claude Trichet. Anche di questo parleremo dopo i mercati. I mercati che sono positivi, più 0,6% in questo momento Milano, meno bene, anche se positiva, Francoforte, più 0,3% come Parigi, Londra più 0,4%, è invece invariata l'America. Questa mattina buona la chiusura in Asia, più 1,6% a Tokyo, è invariato invece l'indice Hang Seng di Hong Kong. Tra i titoli segnaliamo Bulgari più 3,20%, Tenaris più 2,4%, Atlantia più 2%, Pirelli più 1,80%, Eni più 1,5%, Banca Popolare di Milano anch'essa più 1,5%, Lottomatica più 1,3% come Buzzi, Unicem e Luxottica. L'1,2% lo guadagna Mediaset, ma anche Italcementi. L'1,1% Mediolanum, lo 0,90% rialzo di Fiat e di Unicredit. Chi perde? Telecom Italia, meno 1,6%. Ne parleremo nel corso dei mercati finanziari, è un euro per azione il titolo Telecom. Snam meno 1,3%, Ubibanca meno 1%, Monte dei Paschi anch'essa perde l'1% e poi c'è Geox che perde mezzo punto percentuale come Parmalat. Ultimo tema che tratteremo nella seconda ora riguarderà la missione che sta compiendo il ministro dell'agricoltura Luca Zaia in Cina, missione quanto mai delicata. Oggi sui giornali avete trovato anche alcuni elementi di colore. Tutta giocata sulla lotta alla contraffazione, sul rispetto del vero Made in Italy. Vi do solo un dato: pensate che l'agroalimentare contraffatto in Cina vale, quindi finto Made in Italy prodotto in Cina nel settore agroalimentare, vale 100 miliardi di euro, ossia come tutta la produzione agroalimentare italiana. Solo quello contraffatto in Cina, poi vanno sommati anche 50 miliardi di euro di contraffazione negli Stati Uniti e via così. E oggi Zaia ha tenuto una lezione nella principale università cinese, quella di Shanghai, il secondo ministro italiano che tiene una lezione, una lectio magistralis lì, dopo Giulio Tremonti. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le notizie in breve. Notizie in breve che apriamo con un flash di agenzia. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha proposto qualche istante fa una tassa di cui già si era avuta qualche anticipazione nei giorni scorsi, una tassa sulla responsabilità della crisi finanziaria da imporre alle maggiori società finanziarie americane, quindi le maggiori banche americane, banche d'affari soprattutto. E vedo anche il secondo lancio di agenzia, la Casa Bianca ha anticipato, lo leggo assieme a voi, le grandi linee della proposta che Obama farà in diretta televisiva oggi, poco prima delle 18 italiane, quindi fra meno di un'ora. L'idea del presidente di imporre la tassa sulla responsabilità della crisi, che dovrà ricevere poi via libera dal Congresso, fino a quando il popolo americano non sarà stato totalmente compensato per l'assistenza straordinaria fornita a Wall Street. I fondi TARP, quelli che il governo ha dato alle banche, comunque alle istituzioni, anche Freddie Mac, AIG e tutte le altre società finanziarie legate al mondo dei mutui ammontano complessivamente a quasi 300 miliardi i primi, con una seconda tranche da altri 500 miliardi, per cui si arriva in totale a circa un po' meno 800 miliardi di dollari. Quindi Obama ha detto: questa tassa, le istituzioni finanziarie, aggiungo io, che hanno causato questa crisi e che sono state aiutate dai soldi dei contribuenti, la riceveranno finché il popolo americano non sarà stato totalmente compensato. E questa è una linea importante, perché chissà se poi non aprirà in qualche modo la via ad altre iniziative come queste. Penso alla Gran Bretagna, altro paese in cui lo Stato si è comprato interi pezzi del mondo finanziario, dalla Royal Bank of Scotland a altri gruppi, ma anche la Germania e la Francia. Il petrolio, volete sapere, al 349-238-6666, lo stavamo per dare, $79.50 al barile, quindi in calo sotto gli $80 al barile. Scende invece per la prima volta dal 2007 la differenza tra il prezzo medio europeo della benzina, il prezzo medio industriale, e il prezzo industriale della benzina in Italia. È sceso infatti sotto i 2 centesimi, anche se il costo del carburante nel nostro paese resta sempre tra i più cari dell'Unione Europea. Dall'America oggi è arrivato un dato sulla disoccupazione non bello. Il dato è peggiore di qualunque stima degli analisti. Infatti i sussidi alla disoccupazione sono aumentati di 11.000 unità a quota 444.000, anche le vendite al dettaglio, quindi i consumi. In America sono andati peggio delle stime, ci si attendeva un rialzo di almeno 0,5 punto percentuale, c'è stato invece un calo nel mese di dicembre dello 0,3%. E stanno uscendo altri dettagli sulla tassa che Obama proporrà al Congresso per chi ha avuto la responsabilità di questa crisi. Potrà colpire fino a 50 banche, potrebbe arrivare infatti a riguardare 50 istituti finanziari con asset, con quindi beni superiori a oltre 50 miliardi di dollari ciascuno. In sostanza, l'amministrazione di Barack Obama stima di incassare circa 90 miliardi di dollari nell'arco di un minimo di 10 anni. Non è chiaramente la compensazione, però attenzione, degli 800 quasi miliardi che lo Stato americano ha fornito alle banche, molti di questi sono stati ritornati. Goldman Sachs per esempio ha già ritornato i soldi, non è che siano tutti quanti persi. Però 90 miliardi di dollari nell'arco di 10 anni dovrebbe valere questa tassa, una cifra che è un po' inferiore a quella inizialmente stimata, che era di 120 miliardi di dollari. Andiamo all'Europa, la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati, dicevamo, costa il denaro all'1%, resta quindi il livello più basso nella storia decennale dell'euro. Il numero uno della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha detto a fine del 2009 è proseguita la ripresa dell'area euro e le prospettive dell'inflazione sono molto bene sotto controllo, quindi non c'è nessuna preoccupazione sull'inflazione. Purtroppo la disoccupazione nell'area euro è destinata ancora a salire e in questo momento i vari paesi non possono, ha aggiunto Trichet, pensare a un taglio delle tasse, qui riferimento era anche le vicende italiane, non c'è spazio di manovra, la prima cosa da risanare sono i conti pubblici. Quanto all'ipotesi che la Grecia, se avanti così, possa uscire dall'euro, è un'ipotesi più volte ventilata. Il numero uno della Banca Centrale Europea ha detto che l'uscita di alcuni paesi dall'euro è un'ipotesi assurda per quello che riguarda la Grecia. Esamineremo con cura ogni misura presa. Tra l'altro il governo greco si è oggi riunito per approvare il piano di stabilizzazione dopo che si è scoperto che insomma ha mentito sui conti non solo l'anno scorso ma addirittura negli anni precedenti, c'è chi dice fin dal 2001 in poi, sarebbe un po' tanto. Comunque il piano che domani sarà inviato a Bruxelles prevede una riduzione di 4 punti del deficit nel 2010. Attualmente il deficit greco viaggia quasi al 13% del PIL. Ora, se ricordiamo che il 3% è la soglia di Maastricht, che tutti hanno sforato quest'anno, per carità, noi siamo al 5% come la Germania, insomma il 13% non si era mai visto nell'area euro. In questo modo, tagliandolo del 4% nel 2010, vuole riportarlo sotto il 3% entro il 2012. Una manovra veramente forte. Per farlo il governo greco prevede tagli nelle spese, riforma fiscale, lotta all'evasione, questi sono rimedi che già altre volte abbiamo sentito, e anche il premier greco ha escluso l'uscita della Grecia dalla zona euro, così come ha escluso di chiedere aiuto al Fondo Monetario Internazionale. Però oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel, in un forum organizzato dal quotidiano Die Welt, ha detto che la crisi della Grecia sta generando forti difficoltà all'euro. La crisi della Grecia ha portato la valuta europea ad andare incontro a una fase molto molto difficile. E dopo aver parlato di mondo, America e Europa, come sempre nelle nostre notizie in breve arriviamo all'Italia. Oggi si è parlato di distretti, ossia di quel tipico caratterizzazione della struttura produttiva che c'è in questo paese, distretti industriali, e se ne è parlato perché a Roma è stato presentato il primo rapporto curato dall'Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani. Io ricordo che sono la vera spina dorsale del nostro sistema produttivo, se ne contano almeno 156, 2 milioni di persone vi lavorano, contribuiscono per quasi il 40% al valore aggiunto italiano e rappresentano un terzo di tutta la produzione industriale del paese e un terzo di tutto l'export dell'Italia. Il 2009 è stato un anno pesante per i distretti, l'80% dei distretti industriali italiani ha conosciuto un ridimensionamento, c'è un po' più di ottimismo per il 2010, ma è allarme per l'occupazione. Vedremo anche che cosa emerge da questa ricerca, però sentiamo prima al microfono la nostra Chiara Di Michele i dati di questo primo rapporto illustrati dal presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello. Si evince dal nostro rapporto queste 92 realtà che sono state in qualche modo monitorate, una ricerca ulteriore di produrre in qualità, che è l'unico strumento sul quale noi potremo vincere la nostra competitività sui mercati internazionali. Quindi oltre il 50% delle imprese, e anzi due terzi delle imprese che noi abbiamo in qualche modo monitorato, scegliendo la strada dell'innovazione, della competitività, del miglioramento del gusto, della capacità italica di saper produrre in qualità, garantirà sicuramente ai distretti, ma alla nostra economia italiana, di mantenere certe posizioni non solo nel mercato interno ma da crescerlo anche sul mercato internazionale. L'aspetto un po' negativo è quello occupazionale che si evince da questo rapporto. Circa il 50% delle imprese nel 2009 ha dovuto ridurre un attimino anche sotto l'aspetto occupazionale le proprie strutture, e anche il 25% purtroppo lo prevederà nel 2010. Così il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello. E per quello che riguarda l'indagine condotta appunto sui distretti italiani, oltre ad avere 8 su 10, l'80% dei distretti che ha conosciuto un ridimensionamento, quasi 7 su 10 degli intervistati denunciano una riduzione della disponibilità di liquidità dell'impresa, il 50% dei distretti ha poi denunciato un incremento dell'indebitamento, e sempre un 50% ha avuto nel 2009 problemi a pagare i fornitori, a rispettare i pagamenti ai fornitori, e quasi un altro 50% ha ridotto gli investimenti in macchinari e attrezzature. C'è poi una nota interessante, perché uno su cinque ha riacquistato, delle imprese presenti nei distretti, ha riacquistato alcune funzioni che aveva ceduto in outsourcing, come si dice in gergo, cioè esternalizzato, hanno ricomprato attività che avevano affidato e affittato all'esterno, diciamo. E su questo, anche su questo, Walter Taranzano, presidente della Federazione dei Distretti Italiani, sempre a microfono della nostra Chiara Di Michele. Il bilancio del 2009 non è positivo, ovviamente, ma non per una questione distrettuale, è perché siamo sull'onda lunga di una crisi mondiale tremenda per tutto il sistema industriale. I distretti sono aggregazioni di aziende, quindi ovviamente vanno male. La nota positiva di questo osservatorio non sta tanto nei dati, a mio giudizio, ma nello strumento. Cioè, per la prima volta in Italia noi abbiamo dei dati econometrici e quindi scientificamente provati, aggregati per sistema distrettuale, sui quali possiamo fare tutti gli studi e i focus per poi operare. Sicuramente c'è un'emergenza occupazione, c'è stata, ci sarà forse ancora più sentita nel 2010, perché tutti gli imprenditori, soprattutto i piccoli e piccolissimi, hanno resistito finora come potevano, adesso cominciano a venire fuori i nodi e quindi ci sarà sicuramente un'emergenza occupazione che viene fuori anche dalle interviste fatte nell'osservatorio. E come segnala la nostra base musicale, iniziamo con il primo tema di questa puntata, la riforma fiscale. Nel giorno in cui l'INPS ci fa sapere che comunque nei primi 11 mesi del 2009 se ne sono andati 5 miliardi di euro per la cassa integrazione, che comunque il tiraggio, cioè quanto è stato richiesto, è al 63%, per cui solo il 63% delle ore richieste sono state di cassa integrazione sono state effettivamente utilizzate. E anche qui è inutile creare allarmismo, sono tanti 5 miliardi, ci mancherebbe, però a disposizione c'erano 16 miliardi nel 2009 per i fondi della cassa integrazione, quindi solo un terzo, per fortuna, è stato utilizzato. Dicevo, mentre l'INPS fornisce i dati sulla cassa integrazione, si dibatte ancora della retromarcia, insomma, i titoli dei giornali oggi erano i più vari, ma insomma andavano tra la retromarcia, lo stop, la battuta d'arresto sul progetto di riforma fiscale, dopo che ieri il Presidente del Consiglio Berlusconi ha chiarito che non c'è nessuna possibilità di ridurre le tasse in questa situazione economica. E ieri, molto emblematico, il ministro Giulio Tremonti, al microfono, anzi intervenuto a porta, quindi con Bruno Vespa, alla domanda dello stesso conduttore, insomma, che tempi vi date, la risposta anche un po' così, non dico piccata, ma insomma la dice lunga sul fatto che in questo momento sia obiettivamente ancora presto per ragionare sui tempi di una riforma fiscale, quindi di una riduzione della pressione fiscale. Ma c'è una ipotesi di previsione, per esempio, per l'anno prossimo? Se le cose vanno bene, riuscirete come, a fare qualche come modifica? Come era nei nostri accordi redazionali, questa è una domanda che... Alla quale non si può ancora rispondere. No, che lei stesso, dottor Vespa, sa bene che è una domanda che lei deve fare in termini, diciamo, di attrazione, di trasmissione giornalistica e fare il suo mestiere, però sa bene... lei meglio di me, che prima devi capire cosa c'è, come si può fare, come vanno le cose. E d'altra parte il nostro programma elettorale, quest'ultimo, a differenza, diciamo, di altre forze politiche che avevano iscritto nel loro programma la parola miracolo, noi abbiamo iscritto nel nostro programma la parola crisi, e tutti gli impegni presi sono subordinati a tre condizioni ben chiare nel nostro programma. Abbiamo detto: compatibilmente con la crisi economica che arriva e si aggrava, e nel marzo del 2008 non era così diffusa questa visione, anche perché gli altri parlavano di miracoli, crisi che arriva e si aggrava, tenuta dei conti pubblici e poi compatibilità con l'Europa. Così ieri sera il ministro Giulio Tremonti. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 che hanno più, diciamo, una cifra, un tono politico. Ma allora perché il Presidente del Consiglio Berlusconi ha fatto questa fuga in avanti lo scorso fine settimana dicendo che il 2010 sarà l'anno della riforma fiscale? Appunto, una valutazione politica e non economica, e quindi noi continuiamo sulle valutazioni economiche. Nessuna possibilità quindi di ridurre, o nessun neanche tempo sulla riduzione delle tasse, e da quello che si capisce nel 2010 non sarà l'anno, però magari ci sbagliamo. Prudenza anche sulla ipotesi di ridurre sostanzialmente la pressione fiscale sul lavoro e quindi IRPEF, ma non solo, quindi sul reddito da lavoro, aumentando, per non far saltare i conti pubblici, altre pressioni fiscali, altre tasse. Si è parlato molto della tassa dell'IVA, della tassazione sui consumi, e anche di aumentare la tassazione delle rendite finanziarie, dei guadagni di investimento finanziario, che è al 12,5%. Anche su questo però molta prudenza del ministro Monti. Allora, noi abbiamo che i depositi in banca, che sono quelli della gente, le banche e le poste, hanno il 27%, i titoli pubblici fondamentalmente, perché le obbligazioni private non sono molto, sono al 12,5%. Allora, chi c'ha questa roba qua? Una quota enorme ce l'hanno gli investitori stranieri, che sono lordisti, cioè dire non pagano le imposte italiane, quindi hanno un rendimento nettizzato dal prelievo italiano. una grossa quota di questo sta in mano nel portafoglio comunque delle famiglie. E quando uno dice rendita finanziaria, non è che c'è dietro un ognomo di Zurigo, uno col... c'è dietro poi una famiglia che ha i risparmi. Quindi bisogna essere molto attenti e prudenti nel valutare tutto questo. È interessante anche la risposta che il ministro Monti ha dato ieri alla domanda perché non si crea quella forma di contrasto all'evasione, di conflitto sull'invasione, che, permettendo di dedurre, di scaricare le fatture di vari servizi, si dice sempre idraulico o altri servizi. Tremonti ha detto varrebbe come contrasto all'evasione per chi può effettivamente scaricare, per chi insomma ha un reddito e una dichiarazione dei redditi, finirebbe col penalizzare molto chi invece, quella parte meno abbiente, che non ha dichiarazione dei redditi, che non potrebbe scaricare nulla del costo complessivo del servizio. Comunque, parla di presa in giro il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani quanto all'annunciata riforma fiscale e poi al dietro fronte, comunque la battuta d'arresto arrivata ieri. Insomma, io credo che siamo stati di fronte a delle prese in giro colossali, spero che gli italiani se ne accorgano, sono convinto che gli italiani se ne accorgeranno. Abbiamo passato un mesetto a dire abolizione dell'IRAP, adesso abbiamo passato una settimana a dire riforme, aliquote, marce indietro colossali, rapidissime. È un argomento singolare, non si può parlare di tasse perché c'è la crisi, ma allora com'è che in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, in Inghilterra si parla appunto di tasse perché c'è la crisi? Noi abbiamo bisogno di parlare di tasse concretamente adesso per alleggerirle sul lavoro, sulla famiglia, per vedere come favorire gli investimenti e le imprese, perché dobbiamo reagire a un calo troppo forte dei consumi e a un calo drastico degli investimenti. Quindi bisogna parlare di tasse al concreto 2010, non 2050, tasse 2010 per favorire la ripresa economica. Questa è la nostra posizione. Così il segretario del PD Pierluigi Bersani. Dopo il meteo e la pubblicità, sentiremo di nuovo il ministro Monti, ma anche il presidente della Camera Fini, ragionare di un tema che a mio avviso è un tema assolutamente delicato, ossia il PIL, che cosa misura il PIL. Molte volte ce ne siamo occupati, se ne è parlato oggi all'Aspen Institute a Roma. Come misurare la qualità della crescita oltre che la quantità? Sembra un tema molto accademico, in realtà c'è un paradosso che spesso raccontiamo, il paradosso della felicità. Tutti gli economisti della felicità citano il fatto che la Filippina, la governante, è spesso più felice del datore di lavoro pur guadagnando un quarto, un quinto, un decimo. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco arriviamo anche alla borsa. Vi confermo che ha chiuso con un rialzo 0,6%. Milano è la migliore, meglio di Parigi più 0,3, Francoforte più 0,4 e anche Londra più 0,4. Vorrei però trattare ancora una volta brevemente il tema del PIL. Abbiamo detto più volte, noi siamo molto critici con chi come Latouche sostiene che si debba eliminare l'idea del PIL. Non esistono altri misuratori della crescita economica o che si debba lavorare in meno, cioè che un PIL decrescente sia sinonimo di maggiore felicità in alcuni casi. Ne abbiamo discusso con lo stesso autore, il problema è che cosa capita nel frattempo, cioè quanti morti e feriti hai nel momento in cui l'economia si sviluppa in un altro modo, cioè producendo di meno, perché poi devi spiegarlo a chi sta a spasso che i soldi non sono la felicità e che il tempo libero è una cosa bella. C'è chi ne ha troppo, però è anche vero che dal PIL si ottiene molto poco in questo momento, la qualità della vita non è misurata, sappiamo che il Costa Rica per esempio, se si va a vedere un insieme di altre variabili, è il paese dove si vive meglio e sicuramente il PIL del Costa Rica non è un PIL così significativo. Insomma, c'è molto dibattito non solo accademico, lo dico, perché chiaramente con questa crisi vari paradigmi sono stati rimessi in discussione. Se ne è parlato oggi all'Aspen Institute, alla presenza di Giuliano Amato, Giulio Tremonti, Gianfranco Fini, E allora, lo stesso Giulio Tremonti, ministro dell'economia, ha detto la realtà non è oggettivamente catturata appieno dalle statistiche. Il ministro Tremonti ha detto una cosa davvero anche più articolata, perché ha aggiunto: il PIL non è un limite, ma un punto su cui riflettere, dal momento che è stato inventato prima della globalizzazione e non a caso si chiama prodotto interno lordo, cioè quello che viene prodotto all'interno, diciamo, di un paese. E chiaramente la configurazione italiana non è completamente catturata dai contorni del prodotto interno lordo, se si calcola anche il cibo, la cultura, quindi la qualità della vita, o non solo il PIL, la produzione economica derivante dal PIL, noi saremmo al primo posto. Se uno calcolasse oltre al vecchio PIL anche il clima, il cibo, la cultura, l'ambiente e in generale la storia, l'Italia sarebbe a un imbarazzante primo posto nel mondo. Al secondo, al terzo non c'è nessuno, dopo verrebbe qualche altro paese. In realtà purtroppo non è così, il prodotto interno lordo è comunque una misura economica fondamentale, ci stiamo pensando tutti nel mondo, al G20, all'OCSE, oggi abbiamo discusso il risultato di una commissione nominata con premi Nobel dal presidente Sarkozy, bisogna cercare di accompagnare ai vecchi numeri di calcolo anche qualche altro numero che misuri appunto la modernità e il mondo che è cambiato, è più globale. Se vedete i numeri che sono venuti fuori anche oggi e in prospettiva, vedete che l'Italia non è messa affatto male, e questo ci fa oggettivamente piacere. Si è più concentrato invece sul welfare italiano il presidente della Camera Gianfranco Fini. Ha detto welfare, quindi un sistema, uno stato sociale, per non usare un inglesismo, uno stato sociale troppo concentrato sulle garanzie e molto poco concentrato sulle opportunità per i giovani. Attenzione, perché se è vero che la sfida nel futuro in economia globale si giocherà in particolar modo sulla innovazione, sulla eccellenza, sul sapere, sulla tecnologia a forte impatto e quindi in qualche modo sulla scienza, sulla istruzione sempre più diffusa, se in qualche modo è vero che sarà puntando sui più giovani e cercando di rendere i più giovani sempre più competitivi in un'epoca globale, che si può salvaguardare il livello di sviluppo e di benessere della società, cioè se è vero questo, noi lo dobbiamo ripensare il nostro welfare. Noi abbiamo un welfare che è sostanzialmente tutto tarato sulle garanzie ed è pochissimo centrato sulle opportunità. E le opportunità è evidente che devono essere garantite in una politica di crescita, di sviluppo, di forte investimento sull'eccellenza del sapere ai più giovani. Allora, anche qui molti sms, ma adesso dobbiamo arrivare ai mercati finanziari. Va bene, alcuni di voi criticano il paradosso della felicità, ossia il fatto che la Filippina, come si dice in gergo, si possa essere più felice del suo datore di lavoro pur guadagnando molto meno, perché adesso non abbiamo tempo di spiegarlo, ma in realtà nessuno sta dicendo che i soldi non contino, si sta solo dicendo che la felicità è una misura che in una società globalizzata e superati certi livelli di benessere non viene più così misurata dal semplice potere d'acquisto e quindi prodotto interno lordo pro capite. Altri ragionano c'è un messaggio che vi leggo: bei concetti, ma chi è senza lavoro vuole risposte concrete dalla politica e non semplicemente dei ragionamenti, e critica lo scudo fiscale. In realtà, voglio dire, non deve sorprendere che con una crisi, che è una crisi anche di paradigma, se possiamo usare un linguaggio un po' alto, una crisi proprio di modelli, come quella che ha investito il sistema produttivo occidentale, finanziario e poi anche economico, negli ultimi due anni, non deve sorprendere che torni all'attualità, oltre che delle risposte concrete. Poi vi daremo l'aggiornamento anche sulla tassa che Obama sta proponendo per le banche che hanno creato la crisi, tornino d'attualità, dicevo, anche delle riflessioni, se tutti i modelli che stavamo usando avessero un senso. Io voglio dire, lo stesso ministro Tremonti ha paragonato, l'abbiamo fatto sentire più volte, gli economisti ai maghi, lo stesso Papa nel suo primo Angelus ha detto attenzione a non affidarsi né agli astrologi, ai maghi, né agli economisti, non è da lì che arrivano solo le risposte. E io vorrei chiudere questo tema e poi passare ai mercati facendovi riascoltare una cosa che a noi piace molto, quanto meno come spunto, non dico che ci sia una verità assoluta, il discorso che pronunciò Robert Kennedy il 18 marzo del 1968 all'Università del Kansas, quindi insomma, un bel po' di anni fa, 41 anni fa, 42, dicendo che cosa ne pensava del PIL. Già allora se ne parlava, era molto visionaria l'amministrazione Kennedy, e che cosa misura il PIL e che cosa non misura il PIL. Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla nostra eccellenza personale e ai valori della nostra comunità in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro prodotto interno lordo ha superato gli 800 miliardi di dollari l'anno, ma quel PIL, se giudichiamo gli Stati Uniti in base a questo, comprende l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgomberare le strade dalle carneficine. Comprende serrature speciali per le nostre porte di casa e prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende l'abbattimento delle sequoie e la scomparsa delle nostre bellezze naturali nel caos della deregolamentazione urbanistica. Tiene conto della produzione di napalm e delle testate nucleari e delle auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Comprende il fucile di Weedham e il coltello di Speck e i programmi TV che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Eppure il PIL non tiene conto della salute dei nostri ragazzi, la qualità della loro educazione e l'allegria dei loro giochi. Non include la bellezza delle nostre poesie e la solidità dei nostri matrimoni, l'acume dei nostri dibattiti politici, l'integrità dei nostri funzionari pubblici. Non misura né il nostro ingegno, né il nostro coraggio, né la nostra conoscenza, né la nostra passione, né la fedeltà alla nostra patria. In altre parole, misura tutto eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Ci dice tutto sull'America, eccetto il motivo per cui siamo orgogliosi di essere americani. ...17.46 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi così, di complimenti per questo brano di, che abbiamo fatto sentire di Robert Kennedy nel 1968 all'Università di Kansas, devo dire attualissimo, su una riflessione su dove debba svilupparsi anche una crescita economica che nessuno vuole mettere in discussione. È la direzione di questa crescita che stiamo discutendo, non il fatto che uno debba crescere, che debba crescere il benessere. Bisogna capire benessere che cos'è. E accetto anche i suggerimenti di alcuni ascoltatori che sempre al 349-238-6666 dicono: perché non li fate sentire Robert Kennedy da una parte e dall'altra il mitico Gordon Jekyll di Wall Street sull'avidità. Lo faremo, l'idea non è male, far sentire una visione di un certo tipo e invece una visione di un altro tipo, e poi ognuno faccia i riferimenti che vuole sul decennio che è appena trascorso, sui decenni che sono appena trascorsi. Comunque la borsa positiva, Milano più di altre borse europee, più 0,6%, Francoforte più 0,4%, Parigi pure, l'America guadagna adesso lo 0,2%, Londra più 0,4%, i titoli, inflessione netta Telecom Italia, meno 2,1%, è un po' di sedute che soffre il titolo, Bulgari invece molto bene, più 3,5%, Tenaris più 2,7%, Atlantia più 2%, Pirelli anch'essa più 2%, Mediaset più 1,6%, Popolare di Milano più 1,5%, e ancora Eni più 1,5 anch'essa, Luxottica più 1,3 come Italcementi, l'1,2 lo guadagna Buzzi Unicem, ma anche Mediolanum, l'1,1 l'Ottomatica, lo 0,90 Unicredito, Snam più 1,2, scusatemi, Snam meno 1,2, Monte dei Paschi meno 1 come Ubibanca, lo 0,5 lo ha perso Parmalat. Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, i due fronti, Tenaris da una parte e Telecom dall'altra. Esatto, Tenaris è stato uno dei migliori titoli, d'altra parte ricordiamo che lunedì e martedì i titoli erano andati abbastanza male, risentendo della decisione del Venezuela di svalutare il Bolivar, la moneta appunto venezuelana. E d'altra parte fonti vicino all'azienda hanno rassicurato che questo non peserà sui conti di Tenaris, e quindi è da ieri in effetti che le azioni, complici anche peraltro una serie di report positivi, hanno recuperato terreno e oggi hanno mostrato una delle migliori performance. Invece sempre dal Sud America diciamo che provengono notizie che pesano in questo caso negativamente su Telecom Italia, meno 2%, infatti i titoli hanno ampliato la perdita soprattutto nell'ultima ora di contrattazione. Oggi c'è stato un comitato esecutivo dell'azienda, ma per ora non sono emerse novità, soprattutto comunque il mercato è preoccupato per il fatto che le autorità argentine hanno, come sappiamo da più giorni, stanno facendo pressing perché la società venda la quota che detiene in Telecom Argentina, e quando ovviamente si deve vendere per forza anche i prezzi in genere che si riesce a spuntare non sono i migliori. Questo è quello che teme la borsa. Intanto oggi i vertici di Telecom Italia comunque hanno fatto sapere di aver impugnato il provvedimento contro l'antitrust argentino, che ha imposto appunto una serie di tempistiche e di modalità per la dismissione in Telecom Argentina. Probabilmente se ne vedranno delle belle nelle prossime settimane. Allora, il miglior titolo in assoluto è Seat Pagine Gialle, più 10,6%, un vero botto in un titolo molto molto depresso, che sale così 19 centesimi di euro per azione. Qui c'entra anche Il Sole 24 Ore, le indiscrezioni presenti oggi sul quotidiano. Esatto, proprio questa mattina il Sole 24 Ore ha riferito l'indiscrezione che la società ha trattato con RBS, e soprattutto è giunta ad un accordo per l'emissione di un bond tra i 500 milioni e un miliardo, che verrà varata a breve. Sì, il quotidiano parla di un CDA che è convocato per venerdì. In effetti l'azienda poco dopo, in tarda mattinata, ha confermato che a breve verrà convocato un CDA, specificando il giorno, e che sono stati che i colloqui appunto di cui si era fatto riferimento nei giorni prima di Natale con Royal Bank of Scotland dovrebbero aver ottenuto il consenso per l'emissione appunto di un bond. Questo darebbe fiato ovviamente alle finanze di Seat Pagine Gialle, che sono invece su cui pesa un debito abbastanza consistente. A fine settembre si attestava a 2,78 miliardi di euro. Allora andiamo rapidi, che abbiamo altri titoli. Poi c'è la Banca Centrale Europea, Snam Rete Gas, debole, l'abbiamo sentito oggi, motivo, i conti? Meo Martini, il presidente Meo Martini ha detto che i conti 2009 saranno in linea con le attese. D'altra parte ha un po' raffreddato la speculazione che aveva scommesso su uno spin-off della rete downstream, di cui che era stata richiesta dal fondo Night Bing. Praticamente non avendo fatto commenti ha un po' raffreddato la speculazione, proprio per questo le azioni hanno perso terreno. Ancora tra i titoli citiamo, oltre adesso daremo anche i migliori e i peggiori, Unicredit, perché oggi le banche sono rimaste un po' più deboli, Ubibank meno 1, Monte dei Paschi anch'essa meno 1%, Unicredit comunque Intesa guadagnato lo 0,70 più 0,90%. Sì, guarda, Unicredit in verità in questi giorni si muove in modo abbastanza irrazionale. Sappiamo che va avanti l'aumento di capitale, terminerà il 29 gennaio, i titoli oggi sono andati in controtendenza rispetto diciamo ad altri titoli bancari che invece sono risultati deboli. D'altra parte in questi giorni si può dire che le banche registrano un andamento abbastanza contrastato, non uniforme, tant'è che ad esempio il Monte dei Paschi ha perso un punto percentuale, comunque anche più hanno cambiato più volte direzione nel corso delle sedute. Allora, dei titoli che non ho ancora ricordato, andiamo avanti, Luxottica abbiamo detto, Mediolanum più 1,2, Fiat volete sapere più 0,80, Saipem più 0,80 anch'essa, Steam Microelectronics più 0,80, Intesa l'abbiamo detto, il peggior titolo Ceramiche Ricchetti meno 5,7%, Prima Industria meno 5,40%, Realizzi su investimenti e sviluppo meno 4,3%, il secondo miglior titolo invece è Risha Genori più 6,8%, Icon più 5,5%, Lidata più 5,1%, recupera un po' antichi pelettieri controllata dal gruppo Burani dopo i cali forti dei giorni scorsi, più 4,7%. Grazie, Don Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Restiamo in tema di economia e finanza, ossia tassi di interesse invariati, restano i minimi da 10 anni quelli dell'area euro. Decisione ampiamente attesa, interessante invece il commento, come sempre a inizio mese la Banca Centrale Europea fa anche una conferenza stampa quando lascia per giustificare qualunque azione, tassi invariati all'1%, ha detto Trichet che a fine 2009 è proseguita la ripresa nell'area euro, l'inflazione è ben sotto controllo, la disoccupazione salirà ancora, che non ci sono ipotesi di uscita dei paesi dall'area euro e quindi riferimento alla Grecia, che valuterà con attenzione ogni misura della Grecia. Siamo in collegamento con Beda Romano, inviato del Sole 24 Ore da Francoforte. Beda, buonasera. Buonasera. Quanto preoccupa la situazione greca la Banca Centrale Europea? Perché abbiamo visto Angela Merkel oggi dire, insomma, in realtà l'euro sta soffrendo per via della vicenda greca. Ma la preoccupazione è forte, inevitabilmente. Mm-hmm. È inevitabilmente forte, non tanto per il peso specifico della, sì, Grecia, perché la Grecia pesa nell'Unione Monetaria circa il 3% del prodotto interno lordo. La Lombardia, si dice spesso, no? Più o meno, e poi il deficit greco rappresenta sul totale dell'indebitamento, il debito greco rappresenta sul totale dell'indebitamento della zona euro circa il 6%, quindi stiamo parlando di un peso limitato della Grecia nella zona euro. Il problema è naturalmente che il grande timore dei banchieri centrali e dei governi nazionali è che ci possa essere un effetto domino. In altre parole, che altri paesi fragili, più o meno fragili quanto la Grecia, possano subire la stessa sorte. Ed ecco perché anche oggi Trichet non ha smesso un secondo a lanciare l'allarme e a soprattutto esortare i paesi, quelli più fragili, sia a risanare il bilancio, sia a introdurre quelle misure di politica economica che permettono all'economia di essere più competitiva all'interno dell'Unione Monetaria. Beda Romano, chiaramente questo è un tema che affronteremo anche con i colleghi che lavorano a Bruxelles del Sole 24 Ore, però in una battuta, c'è stata una riflessione anche su come sia stato facile truccare i conti di uno Stato sovrano? Insomma, la Grecia ha raccontato che aveva un deficit intorno al 3,9 e ce l'aveva al 12,7. Ora, insomma, sembra quasi una cosa da ragazzini. Cioè, quello che ha sorpreso è vedere conti truccati per così tanti anni senza che nessuno se ne accorgesse. Sì, credo che ci siano due motivi fondamentalmente. Due motivi. Prima di tutto, i conti, sia i conti economici che i conti di bilancio di qualsiasi paese all'interno dell'Unione Monetaria o in giro per il mondo, hanno una dose di arbitrarietà, inevitabilmente, perché stiamo parlando di grandezze enormi, non facilmente verificabili, che si possono in un modo o nell'altro modificare. Certo. Il secondo? E il secondo motivo è che c'è bisogno all'interno dell'Unione Monetaria di istituti di statistica indipendenti da potere politico, e apparentemente l'istituto di statistica greco non è stato in questi anni indipendente. Grazie anche per la nota capacità di sintesi a Beda Romano, corrispondente Sole 24 Ore dalla Germania. C'è il GR, poi parliamo con il ministro Zaia in Cina, la polemica sugli involtini, insomma non c'è solo quello, sono cose anche ben più serie, visto il valore della contraffazione dei prodotti made in Italy contraffatti in Cina come finto made in Italy. Nel settore agroalimentare, volete sapere, mi fa piacere, dove trovare questo discorso di Robert Kennedy? 1968, 18 marzo, Università del Kansas, lo scaricate da YouTube tranquillamente. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vediamo in aggiornamento quello in diretta, quello che sta dicendo il presidente Barack Obama, che ha iniziato poco fa a parlare. Come già abbiamo annunciato, sempre leggendo le agenzie in diretta inizio programma, Obama ha chiarito che la nuova tassa serve la tassa che vuole applicare si calcola che siano almeno 50 le banche, istituti finanziari, istituti assicurativi che garantiscono i mutui che saranno coinvolte da questa tassa che lui ha prima chiamato sulla responsabilità di questa crisi da imporre alle maggiori società finanziarie americane e che durerà finché i contribuenti americani non saranno stati totalmente compensati per l'assistenza straordinaria che il contribuente ha fornito a Wall Street, quasi 800 miliardi di dollari dati per salvare o la tenuta del sistema finanziario americano. Obama sta parlando, si calcola che il gettito complessivo dovrebbe essere di questa tassa intorno ai per 10 anni, dovrebbe essere più o meno intorno ai 10 ai 90 miliardi di dollari e non i 120 preventivati, mentre quello che ha appena dichiarato il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha anche specificato che questa tassa non è solo punitiva ma serve a prevenire una nuova crisi. Siamo in grado di farvi ascoltare praticamente in diretta, lo tradurrò io, quello che sta dichiarando Barack Obama sulla nuova tassa. Through this fee and broader reforms that we seek, our goal is not to punish Wall Street firms, but rather to prevent the abuse and excess. Ecco, come avete appena sentito, l'obiettivo non è punire Wall Street, ma piuttosto prevenire gli abusi e gli eccessi che sono costati di collasso delle stesse istituzioni di Wall Street. Non possiamo tornare a agire come se non fosse successo nulla. Quando vediamo che le società finanziarie intraprendono di nuovo la pratica di investimenti rischiosi, quando vediamo il ritorno alla pratica dei bonus, mega bonus e manager finanziari, tutte pratiche che non sembrano la conseguenza delle difficoltà che il paese ha vissuto, a me sembra, ha detto Obama, che sia proprio il vecchio modo di agire. These executives are out there giving themselves huge bonuses. What I'd say to these executives is this: instead of sending a phalanx of lobbyists to fight this proposal, I suggest you might want to consider simply. Sentiamo anche dire, ha continuato Obama, che le varie società finanziarie di Wall Street si lamentano di questa tassa dicendo che non è gradita, non è giusta. Non so per quale strana logica, ha continuato Barack Obama, viene detto che i costi dei salvataggi devono essere a carico dei cittadini piuttosto su chi ne ha beneficiato. E questo quando i manager, e questo in un periodo in cui i manager stanno ancora al loro posto e si stanno dando altri bonus. Io a questi manager voglio dire che piuttosto che lottare contro la proposta, vi consiglio, un avvertimento molto forte che Obama dà all'intera Wall Street, vi consiglio semplicemente di far fronte alle vostre responsabilità. Gettito previsto da questa tassa in 12 anni circa 117 miliardi di dollari, 90 miliardi, dicono altre fonti, in 10 anni. Cambiamo tema invece e ci occupiamo della missione del ministro Zai in Cina, difesa quindi dei prodotti italiani dell'agroalimentare dalla contraffazione cinese. Sì, perché la contraffazione cinese vale tantissimo, già ricordavamo le cifre. Comunque, visto anche l'orario, ci colleghiamo subito con il ministro Luca Zaia che sta svolgendo in Cina una visita che durerà 5 giorni per promuovere e tutelare anche il nostro patrimonio alimentare. Prima tappa della missione Pechino, oggi a Shanghai. Buonasera, ministro. Buonasera a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Buonanotte, vista l'ora a Shanghai più che altro. Allora, lei oggi ha tenuto una lezione magistralis, una lezione all'Università di Shanghai, è il secondo ministro italiano dopo Tremonti e se ho ben capito nella sua lezione tutto è girato attorno all'idea di identità, che è un tema molto caro alla Lega, ma identità in questo caso culinaria, identità culturale attraverso la cucina. Che cosa ha sostenuto in sostanza? Perché noi, a me viene in mente un paradosso, noi italiani abbiamo esportato il cibo italiano in tutto il mondo, sarebbe un po' strano che dicessimo che ognuno deve mangiare le cose di casa sua. Beh, sono sostanzialmente delle riflessioni che ho portato nella più grande università e famosa cinese, che è l'Università di Fudan. E ho portato la riflessione dell'importanza di salvaguardare l'agricoltura, quella territoriale, la produzione identitaria dei territori agricoli, ponendo fine alla globalizzazione. E questo è un interesse che noi abbiamo fino in fondo, perché dietro la difesa dell'agricoltura, che vede la produzione del cibo, c'è una tutela dei valori dei territori. E ovviamente questa riflessione è riportata anche nel libro che uscirà adesso a marzo, che parla di questi temi, il mio libro edito da Mondadori. Ecco, quando lei dice difesa dell'agricoltura, dell'identità agricola, questo chiaramente noi abbiamo una, come Italia, una produzione agricola che si aggira intorno ai 100 miliardi di euro l'anno. Di questi 100 miliardi, 25 vengono esportati come produzione agricola. E fin qui diciamo tutto bene. Vorrei capire che cosa vuol dire invece giocarla molto sull'invito che oggi ho trovato anche sui giornali agli italiani a mangiare italiano. Cioè, se l'italiano deve mangiare italiano, il cinese deve mangiare cinese, l'americano deve mangiare americano? Noi diciamo che gli italiani innanzitutto debbono dare una mano ai nostri agricoltori, che sono molto più in difficoltà degli agricoltori ad esempio cinesi, e un agricoltore cinese guadagna malamente 100 euro il mese. E il consumo di prossimità, il consumo di stagione, non è solo un fatto economico, ma anche il mantenimento di una realtà identitaria produttiva sui nostri territori. Cosa sarebbe l'Italia, ad esempio, proviamo a pensare, senza il ruolo eccezionale che hanno gli agricoltori nella promozione del turismo attraverso la tutela del paesaggio. Questo è solo uno dei tantissimi aspetti positivi che stanno lì a rappresentare la presenza degli agricoltori. Allora, lei mi corregga se sbaglio, ma è vero che il falso made in Italy prodotto in Cina genera danni al settore agroalimentare italiano pari a 100 miliardi, che vorrebbe dire il valore di tutta la produzione? Assolutamente sì, in generale. E la ringrazio perché con la sua ospitalità in più occasioni abbiamo parlato del falso made in Italy. Un prodotto su 10 è vero made in Italy, 9 prodotti e di quei 10 sono falsi made in Italy. La Cina è un grande produttore, e lo diciamo perché i sequestri poi li facciamo. Abbiamo visto mozzarelle che nulla hanno a che vedere con le mozzarelle, piuttosto che penso alla mortadella, chiamata proprio mortadella, ed era fatta con carne di bovino. Oppure il parmesan, il grande surrogato, brutto termine per dire surrogato, la grande contraffazione del parmigiano reggiano o del grana padano fatto con questo formaggio, che nulla ha a che vedere con la nostra altissima qualità. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia. Siamo in collegamento con Shanghai con il ministro Luca Zaia. Molti messaggi al 349-238-6666 sul tema della contraffazione. Comunque, ministro, riprendendo il tema, insomma, lei a Pechino 2 giorni fa ha siglato un accordo con il governo cinese per la lotta alla contraffazione alimentare, che tra l'altro, rispetto a altre contraffazioni, mentre confermo il dato agli ascoltatori, l'agroalimentare contraffatto in Cina come finto made in Italy vale l'intera produzione in un anno di tutto l'agroalimentare italiano. Ma dicevo, oltre che essere un problema di lotta alla contraffazione economico, visto che non parliamo di maglioni, con tutto rispetto, di pantaloni, ma di cibo, è anche un problema di salute, è un problema sanitario. Che cosa avete firmato concretamente come accordo? Ed è esattamente, lei dice bene, un problema anche delle autorità cinesi. Il mio collega ministro dell'agricoltura Chang Su ha accettato di firmare questo accordo, che tra le tante cose prevede appunto anche un impegno alla contraffazione. I cinesi sono molto attenti nelle importazioni, chiedono ed applicano regole severissime sotto il profilo sanitario. Ne sappiamo qualcosa noi che abbiamo sbloccato dossier come quelli del kiwi, del prosciutto crudo e dei formaggi rispetto alle nostre esportazioni in Cina. E per questo motivo però loro si rendono anche conto che se noi continuiamo a sequestrare schifezza, l'immagine e l'onorabilità di un paese che sta crescendo a dismisura rischia di essere poi intaccata a livello internazionale. Per cui la mia proposta che ho fatto a loro è quella di scambiarci delle blacklist, cioè delle liste nere di aziende che magari noi riusciamo a reperire nei nostri sequestri. Quindi diciamo: guarda, questi signori cinesi qui in Italia si sono comportati male, o quantomeno hanno mandato dei prodotti che non sono degni di questo nome. Sì, tra l'altro devo dire che la Cina, come anche lei ricordava, questo problema lo sta affrontando anche in casa propria. Alcuni di voi ricorderanno la vicenda che ha creato più di un morto in Cina e, se non ricordo male, il ministro ha portato anche delle condanne a morte sulla produzione di latte, che poi si è rivelato tossico, e sono stati condannati a morte anche i produttori. Tra l'altro proprio nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, scusatemi, la Cina su questo dal 1 giugno del 2009 ha introdotto una legge che rende ancora più stringenti i controlli e inasprisce le pene per chi sostanzialmente tarocca in maniera anche pericolosa per la salute i prodotti alimentari. Veniamo alla parte concreta. Cosa vuol dire che i kiwi, dopo i kiwi, anche le arance italiane dovrebbero arrivare presto sulle tavole cinesi? Beh, in questi 20 mesi di governo ne abbiamo sbloccato il dossier del kiwi, quindi l'importazione in Cina di kiwi italiano oggi è una realtà. abbiamo sbloccato quello del prosciutto crudo, adesso si sta sbloccando, entro i primi sei mesi di quest'anno sbloccheremo anche la parte del prosciutto cotto, i formaggi, che anche questi avevano dei problemi, abbiamo ottenuto anche l'impegno da parte della massima autorità di controllo, che è l'ASIC cinese, che è un po' una repressione frodi e controllo alle dogane, di avere chiusa anche la partita per l'esportazione dall'Italia su Cina degli agrumi. Questo è un grande risultato e posso garantire che l'attenzione del governo cinese rispetto alla sicurezza alimentare è alta ed è giusto che noi iniziamo a colloquiare in maniera proficua con loro, visto considerato che il Made in Italy, il nostro cibo, piace. Ancora qualche domanda per lei che non riguarda solo la Cina, quindi vorrei andare rapidamente, però Ministro, va benissimo sbloccare i kiwi e le arance italiane. A questo punto, visto che noi abbiamo comunque un disavanzo nella bilancia commerciale nell'agroalimentare con la Cina, cioè noi esportiamo praticamente meno di quanto importiamo, praticamente 367 milioni di euro di disavanzo, tra l'altro Ministro, che cos'è che importiamo nell'agroalimentare dalla Cina soprattutto? Beh, dalla Cina ci sono delle importazioni soprattutto per l'industria conserviera, soprattutto. Certo. Faccio l'esempio, ad esempio, del pomodoro, piuttosto che altre importazioni sul fronte degli ortaggi, e ovviamente poi c'è una miriade di produzioni, me ne viene in mente una, i prodotti dell'acquacoltura, quindi i gamberi, certo, piuttosto che i pesci e molto altro ancora. E noi siamo dei grandi consumatori, ma non è che noi amiamo consumare il prodotto cinese. Il problema è che i costi di produzione del cinese sono di gran lunga inferiori ai nostri, direi che i costi di produzione oggi di un cinese sono almeno un decimo, un quindicesimo rispetto al costo di produzione in Italia. Allora, dopo vorrei arrivare anche appunto al disegno di legge italiano sul chilometro zero, quindi prodotti che emettono meno CO2, i farmers market, e anche al tema degli extracomunitari, dei migranti nelle campagne. Però per chiudere sulla Cina, io le riconosco che lei difende il Made in Italy, è andato in Cina a dire insomma attenzione, basta con le vostre porcherie, alcuni hanno detto, ma insomma, possiamo dire che ogni paese, che l'italiano deve mangiare italiano, ci facciamo del male da soli, perché se il cinese mangia cinese e l'australiano mangia australiano, noi siamo rovinati come esportazione. Possiamo dire che forse la campagna andrebbe fatta come mangiate cibo sano e quindi mangiate anche cibo italiano? Beh, sicuramente dovrebbe essere così, ma dovremmo anche metterci una prima parte a questa promozione, che è quella di dire mangiate innanzitutto i prodotti del vostro territorio. E ricordiamo che noi dobbiamo riconoscere l'assurdità di vedere, che so, frutta come le pere e le mele ad essere gettata nelle discariche in un momento nel quale 1.200.000.000 di persone nel mondo soffrono la fame, perché qualcuno ha deciso che bisogna consumare l'ananas. E io ringrazio invece tutti gli italiani, ringrazio tutti voi media che avete sposato ad esempio la campagna di Brindo Italiano. Quest'anno l'Italia è stato il primo paese per il crollo verticale dei consumi dello champagne, meno 66%, è un grande risultato. E anche per il Prosecco e i Franciacorta e tutte le bolle italiane. Ministro, io le riconosco un certo coraggio, però che senso ha avuto arrivare in Cina e chiedere ai cinesi ditemi cosa c'è dentro l'involtino primavera? Sarebbe come se un cinese venisse qua e dicesse ditemi cosa c'è nel ragù, perché anche quello potrebbe essere un mistero delle volte, no? Cioè... Beh, quella è una dichiarazione che mi hanno strappato, che comunque serve anche sotto il profilo della comunicazione a far capire il senso della nostra missione, che è un po' la parte di Lectio Magistralis che ho fatto questa mattina all'Università di Fudan. Significativamente significa: parliamo di tracciabilità, parliamo di origine, parliamo di etichettatura. Noi non siamo più disposti a pensare a un mondo, soprattutto quello del cibo, dell'agroalimentare, dove non ci sia tracciabilità. Da qui nasce la battuta, diteci cosa c'è dentro l'involtino primavera. Ma poi gliel'hanno detto o no? Ma sicuramente qui ti spiegano che comunque anche loro stanno portando avanti questo progetto dell'etichettatura. Guarda caso fanno gli stessi ragionamenti nostri e parlano della tracciabilità, quindi... E diranno che nell'involtino primavera preconfezionato c'è, che so, la pasta a filo, che è la parte esterna dell'involtino, quella che poi viene fritta. All'interno c'è una julienne di cavoli prodotti nelle campagne, non so di che zona della Cina, piuttosto che carote o carne di pollo o di maiale. Quello sarà, ma è giusto che tutti i cittadini abbiano la tracciabilità, cioè l'informazione su cosa stanno mangiando. E perché non proporre un involtino primavera con dentro radicchio trevisano, così univamo, diciamo, due elementi a lei molto cari? Ma guardi, provocatoriamente potremmo dire altro, nel senso che l'invito non è contro la cucina identitaria cinese, ma finché non ci sarà tracciabilità è bene che nelle cucine cinesi italiane magari quantomeno utilizzino la tracciabilità che esiste già in Italia e quindi magari si utilizzino le materie prime italiane. Questo potrebbe innanzitutto essere più, come si può dire, carino nei confronti dei nostri agricoltori che stanno lì a guardare e si chiedono come mai certi cibi vengono consumati. Quindi potremmo avere un involtino a radicchi, potremmo chiamarlo involtin, così diciamo brevettiamo anche una nuova ricetta. A parte la battuta, ministro, due cose, due elementi al volo. Cos'è il progetto di legge che dovrebbe riguardare il disegno di legge sui cosiddetti farmers market, ossia andare a fare la spesa nei mercati di prossimità, dove il cibo è a chilometro zero o vicino ai chilometri zero? Ma io sono convinto che i dati sono chiari, cioè i dati ufficiali nazionali ci dicono che il 10% degli acquisti dell'agroalimentare quest'anno ha visto come attore il farmer market, cioè l'acquisto direttamente dal contadino. Fatti pensare, non so, al successo dei distributori di latte crudo, tanto per fare un esempio, piuttosto che la verdura, la frutta comprata a cassette lungo le strade o nei farmer market. Allora cosa dire? È giusto che ci sia una regolamentazione, proporrò al Consiglio dei Ministri, se vorrà sottoscriverlo, un disegno di legge che parla di regolamentazione a tutela di produttori seri che vendono veramente i loro prodotti, a tutela dei consumatori che devono essere i primi ad essere tutelati quando vanno ad acquistare, non solo sotto il profilo del prezzo, ma anche del fatto che quegli alimenti che vendono, quelle produzioni agricole, siano veramente di quel contadino, e direi anche a tutela dei commercianti che non possono subire magari il dumping di qualche contadino che fa finta di essere contadino ma non lo è. Un'ultima battuta me la deve sugli extracomunitari migranti che lavorano nei campi, nell'agricoltura. Io non voglio entrare adesso nella polemica su Rosano, però possiamo dire in maniera chiara una volta per tutte, Ministro, che l'agricoltura italiana senza la manodopera extracomunitaria si ferma? Ma noi possiamo dire con tranquillità che la manodopera extracomunitaria nell'agricoltura è una realtà, come lo è nelle aziende del secondario e anche in parte del terziario. Questo non vuol dire che si debbano mettere in piedi imprese con immigrati clandestini che sono sfruttati a livello di schiavitù. Questo perché ve lo dico? Perché da nord a sud abbiamo il problema degli stagionali della coltivazione dell'ortofrutta, che so, in Veneto, in Emilia Romagna, cioè tutti conoscono come una bella realtà, la Lombardia piuttosto che la Sicilia, la Puglia e altro ancora, dove aziende per bene hanno messo in piedi dei sistemi nella legalità di assunzione degli extracomunitari non clandestini. Quindi chi qualche anno fa ha fatto altre scelte cercando e pensando di lavorare con gli immigrati clandestini pagandoli e riducendoli alla fame e facendo dumping sul mercato contro i nostri agricoltori italiani che si comportano bene, non possono oggi avere la scusa di dire che ci saranno gli immigrati c'erano, ci sono, ma devono essere regolari. Grazie, in bocca al lupo per la missione del ministro Zaia in Cina. Ho detto coraggioso, alcuni di voi mi scrivono. Sì, voglio dire, andare dai cinesi e dire attenzione, vogliamo sapere cosa c'è nel vostro cibo e attenzione a certe porcherie, e anche chiedere provocatoriamente cosa c'è dentro l'involtino, secondo me è un atto di provocazione coraggiosa, ecco, in questo senso. Grazie Luca Zaia in collegamento con noi da Shanghai. Buonanotte a tutti. Allora, siamo in conclusione, non riesco a leggere, chiedo scusa a alcuni che dicono non leggete mai i miei messaggi, non riusciamo a leggere tutti i messaggi, ne saranno arrivati una sessantina solo negli ultimi 10 minuti, nessuno vuole brevettare l'involtin con radicchio, però magari qualcuno ci ascolta e finalmente serviremo anche a creare un business. Al di là della battuta, da Sebastiano Berisoni l'augurio di una buona serata, vi riprometto che faremo sentire di nuovo Robert Kennedy in quel bellissimo, a mio avviso, monito su cosa misura il PIL e cosa non misura, magari unendolo anche a Gordon Jekyll di Wall Street. Per oggi è veramente tutto. Wall Street resta quella, la borsa resta positiva anche se di molto molto poco, più 0,18%. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.